È una fiera che continua a rinnovarsi, continua a raccontare sia il passato, quindi la tradizione, che l'innovazione. Riconfermiamo Massimo Zanotti come direttore artistico, riconfermiamo Pico Club come la parte per la parte di Resistance e aggiungiamo però una parte di promozione per tutte quelle che sono le realtà deco del territorio. Le deco sono le dominazioni comunali, quindi la parte proprio di cultura più tradizionale che c'è sul territorio, che quest'anno avrà un suo spazio all'interno del centro Malpensa, in cui presenteremo sia le deco nostre territoriali come il carciofo violetto e l'olio dei Colli Bolognesi, per cui quest'anno siamo diventati anche città dell'olio, più tutte le altre parti che sono magari il merletto, i burattini. Ci sarà un importante concerto anche di ocarina e poi appunto riportiamo anche il lazzarone, che era una maschera dei burattini che era stata fatta da Riccardo durante alcuni anni fa, e la riportiamo all'interno della nostra fiera. Quindi Fiera di San Lazzaro, appunto tradizione radicata, ma che cosa rappresenta per i cittadini? Rappresenta non solo per i cittadini di San Lazzaro, ma per tutta la città metropolitana, e per quello che oggi siamo qui a Extrabo, tra l'altro, a presentarla. Rappresenta un momento di festa, un momento appunto di convivialità. Per noi rappresenta molto la comunità, rappresenta portare tutta la comunità di San Lazzaro in piazza, a divertirsi, a svagarsi per 4 giorni. Insomma, è un momento in cui noi ci teniamo a regalare questo momento alla città ogni anno. 193. La mia seconda fiera, sono felicissima, la prima esperienza, insomma poche settimane dopo la mia elezione, è stata davvero un'emozione incredibile e abbiamo cercato di creare anche quest'anno un evento che tiene conto della storia, della tradizione di questa festa, che è una festa che ormai è diventata famosa in tutta l'area metropolitana e non solo, ma ci siamo posti il problema di fare in modo che chiunque possa trovare cose interessanti, belle, per stare in allegria 4 giorni. Quindi tradizione e innovazione per noi sono stati, diciamo, due riferimenti fondamentali, e la mia seconda volta è anche la seconda volta di un direttore artistico come Massimo Zanotti, che insomma anche quest'anno ci proporrà delle cose davvero stupende. Ecco, un appuntamento ormai consolidato. Cosa offre quest'anno la fiera? La Fiera di San Lazzaro quest'anno sicuramente offre grande musica, e questo è stato un mio impegno in qualità di direttore artistico, offrire veramente un panorama di concerti intanto a largo raggio, perché soddisfino i palati più fini e comunque anche i gusti più particolari, però sono tutti eventi fruibili da tutti. A me piace che la comunicazione arrivi a tutti, perché penso che la musica vera non può sbagliare e arrivi alla pancia di chiunque. Che tipo di musica ci sarà? Ma andremo sicuramente nel pop, ci sarà Tullio De Piscopo, che poi definire pop è un grande musicista, insomma. Abbiamo scelto anche di onorare il jazz quest'anno con un grande nome come Fabrizio Bosso. Abbiamo la grande musica americana con il country, il western, con i Lovesick. Abbiamo un omaggio molto bello a Francesco Guccini, che sarà tenuto da Gloria Turrini, ospite speciale Flaco Biondini, che è il suo chitarrista, nel senso di Francesco Guccini, lo conoscete tutti. È stato pensato anche una valorizzazione, questo mi stava a cuore, della banda di San Lazzaro, che ospiterà uno dei più grandi solisti mondiali di tromba, che è Andrea Giuffredi. Ci sarà anche un concerto che terrò io stesso, che dirigerò insieme alla FTCBO Brass Band, che è la brass band della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, ma non aspettatevi la musica classica, perché sarà un evento ricco di funk, grande musica americana, e farà anche muovere molto. Un'altra cosa bella che mi piace sottolineare è una dedica a uno spazio per la musica dei bambini. Infatti abbiamo una serata dedicata allo Zecchino d'Oro, sarà un live show con i loro testimonial, con l'asinello Nunu per chi lo conosce, ci saranno anche ospiti alcuni interpreti delle ultime canzoni dell'ultima edizione, e sarà molto coinvolgente per bambini e famiglie. Non voglio dimenticare i Savannah Funk, che sono un'altra realtà bolognese assolutamente, come i Lovesick, in grande ascesa, ed è secondo me molto importante sottolineare queste bellissime evoluzioni del nostro territorio. L'ultima cosa che aggiungo è che l'evento che dirigerò io della domenica sera sarà aperto da Sofia Di Vaio, che è una giovane cantante molto brava, e mi sembrava bello dare spazio anche a chi sta emergendo.